Mr. Bloom s'avviò verso Dawson Street, lisciandosi i denti con la lingua. Ci vorrebbe qualcosa di verde, spinaci per esempio. Poi con quel riflettore di raggi Rengten si potrebbe. In Duke Lane un terrier vorace vomitò a forza uno schifoso groppo tutto noccioli sul selciato e se lo rileccò su con rinnovato gusto. Il rigurgito, restituito con tanti ringraziamenti, dopo aver digerito del tutto il contenuto. Prima il dolce e poi la pietanza. Mr. Bloom costeggiò prudentemente. Ruminanti. Seconda portata. Muovono la mascella superiore. Chissà se Tom Rochford ne farà qualcosa della sua invenzione. Perdeva il tempo a spiegarlo a quel boccalone di Flynn. Gente magra, bocche lunghe. Ci dovrebbe essere una sala o un posto dove gli inventori potessero andare a inventare gratis. Certo che allora tutti i fissati starebbero a seccare. Canticchiò, prolungando in eco solenne, le ultime note delle battute. «Don Giovanni, a cenar teco mi invitasti!» «Mi sento meglio, borgogna, un buon tiramisù. Chi ha inventato la distillazione? Qualcuno che aveva la luna?» Coraggio della disperazione. Quel Kilkenny People alla Biblioteca Nazionale. Ora devo. Le tazze d'accesso spoglie lucide in attesa nella vetrina di William Miller idraulico dettero un'altra piega ai suoi pensieri. Potrebbero. E osservarlo per tutta la discesa. Inghiottire uno spillo a volte esce dalle costole dopo anni. Giro intorno al corpo, cambiando il dotto biliare, fegato che trasuda bile. Succo gastrico, rotoli di intestini come tubi. Ma il disgraziato dovrebbe starsene continuamente in piedi con l'interiore in mostra. Scienza. A cenar teco. Che vuol dire quel teco? Stasera, forse. Don Giovanni, tu hai me invitato a venire a cena stasera, para ponzi ponzi po. Non corre. Kiss, 2 mesi. Se persuado Nannettia, verranno 2 sterline e 10 circa, 2,8. 3 me ne deve Heinz, 2,11. Se riesco ad avere l'annuncio di Prescott, 2,15. Circa 5 guinee. A cavallo. Potrei comprare una di quelle sottovesti di seta per Molly, colore delle nuove giarrettiere. Oggi, non pensare. Poi una tournée nel sud. E perché non le spiagge inglesi? Brighton, Margate, Molly al chiaro di luna. La voce di lei aleggia nell'aria. Quelle belle ragazze in riva al mare. Contro il negozio di John Long, un vagabondo sonnacchioso oziava sprofondato in meditazione, rosicchiandosi una nocca incrostata. Uomo tutto fare cerca lavoro, salario modesto, mangia di tutto. Mr. Bloom si voltò a guardare la vetrina di Gray, il pasticcere, piena di crostate invendute, e passò davanti alla libreria del reverendo Thomas Connellan. «Perché ho lasciato la chiesa di Roma? Nido d'uccello, le donne lo manovrano. Si dice che dessero ai bambini poveri la minestra per farli diventare protestanti al tempo della carestia di patate. Più in là c'è quell'associazione dove andava il babbo per la conversione degli ebrei poveri. Stessa esca, perché lasciammo la chiesa di Roma?» Un giovanotto cieco era fermo sul marciapiede battendo nell'orlo col bastoncino. Nessun tram in vista. Vuol traversare. «Vuol traversare?» chiese Mr. Bloom. Il giovanotto cieco non rispose. La sua faccia di muro s'accigliò debolmente. Mosse la testa mal sicuro. «Si trova in Dawson Street», disse Mr. Bloom. «Di fronte c'è Molesworth Street. Vuol traversare? C'è via libera». Il bastone, tremolando, si mosse verso sinistra. L'occhio di Mr. Bloom lo seguì e rivide il furgone della tintoria fermo davanti a Drago. «Dove ho visto i suoi capelli imbrillantinati, proprio quando ero...» «Cavallo con la testa ciondoloni. Vetturino da John Long. A spegnere la sete. Là c'è un furgone», disse Mr. Bloom, «ma è fermo. La accompagno io. Vuole andare a Molesworth Street?» «Sì», rispose il giovanotto. «South Frederick Street». «Venga», disse Mr. Bloom. Toccò lievemente il gomito esile, poi prese la mano flaccida e veggente per guidarla avanti. «Digli qualcosa. Meglio non fare il condiscendente, non si fidano di quel che gli dici. Fare un'osservazione qualsiasi. La pioggia per ora non si è fatta viva». Nessuna risposta. Macchie sul cappotto. Si sbrodola quando mangia, immagino. I sapori per lui sono tutt'altra cosa. Prima l'han dovuto imboccare. La mano come la mano di un bimbo, come quella di Milly una volta. Sensibile, cerca di giudicarmi dalla mia mano. Chissà se ha un nome. Furgone. Tenere il bastone lontano dalle gambe del cavallo. Povera bestia stanca che schiaccia un sonnellino. Benissimo. Libero. Ha un toro stargli dietro, ha un cavallo davanti. Grazie, signore. Sa che sono un uomo. Voce. Va bene così? Prima svolta a sinistra. Il giovanotto cieco batté il bastone contro l'orlo del marciapiede e seguitò per la sua strada, tirando indietro il bastone, tentando di nuovo. Mr. Bloom seguì i piedi senza vista, il vestito troppo largo di tweed a lisca di pesce. Povero giovane. Come diavolo faceva a sapere che c'era un furgone? Deve averlo sentito. Forse vedono con la fronte una specie di senso dei volumi. Il peso o la grandezza, qualcosa di più nero del buio. Forse se ne accorgerebbe se levassero di mezzo qualcosa. Sentirebbe un vuoto. Deve aver di Dublino un'idea curiosa, battendosi la strada di qua e di là sulle pietre. Potrebbe camminare in linea retta, senza quel bastone. Pio viso esangue, come uno che voglia farsi prete. Per Rose, così si chiamava quel tale. Guarda un po' quante cose possono imparare a fare. Leggere con le dita, accordar pianoforti. O è che noi ci si stupisce che abbiano del cervello? Per questo pensiamo che un deforme o un gobbo sia intelligente se dice qualcosa che anche noi potremmo dire. Naturalmente gli altri sensi sono più ricamare, intrecciar vimini. La gente dovrebbe aiutare. Se comprassi un cestino da lavoro per il compleanno di Molly, odia cucire, potrebbe offendersi. Uomini al buio li chiamano. Anche il senso dell'odorato deve essere più forte. Odori a grappoli da tutte le parti. Ogni strada odore diverso. Ogni persona anche. Poi la primavera, l'estate, odori. Gusti? Dicono che il vino non si gusta con gli occhi chiusi o col raffreddore. Anche fumare al buio dicono che non dà piacere. E con le donne, per esempio, più sfacciati a non vedere. Quella ragazza che passava davanti all'istituto Stewart con il naso in aria. Guardami, li ho tutti addosso. Deve essere strano non vederla. Una specie di forma davanti all'occhio dello spirito. La tempra della voce. Quando lui la tocca con le dita deve quasi vedere le linee, le curve. Le mani sui suoi capelli, per esempio. Diciamo che siano neri, per esempio. Bene, per noi sono neri. Poi, quando passa sulla sua pelle bianca, forse una sensazione diversa. Senso del bianco. Ufficio postale. Devo rispondere. È una seccatura oggi. Mandarle un vaglia di 2 scellini, mezza corona. Accetta questo mio piccolo omaggio. Qui c'è un cartolaio. Aspetta, ripensaci. Con dito delicato si toccò pian piano i capelli riportati sopra le orecchie. Ancora. Fibre di paglia finissima. Poi, delicatamente, il dito tastò la pelle della guancia destra, anche lì peluria, non abbastanza liscia. Il più liscio è il ventre. Nessuno intorno. Eccolo là che svolta in Frederick Street. Forse per il pianoforte della scuola di danza Livingstone. Potrei far finta di aggiustarmi le bretelle. Passando davanti al bar di Doran, infilò la mano fra il panciotto e i pantaloni, e scostando delicatamente la camicia si tastò una flaccida piega del ventre. Ma lo so che è bianco giallastro, voglio provare al buio per vedere. Ritirò la mano e si chiuse il vestito. Poveretto, un ragazzo ancora, terribile, proprio terribile. Che sogni potrà fare se non vede? La vita è un sogno per lui. Dov'è la giustizia quando si nasce così? Tutte quelle donne e bambini in gita, bruciati e affogati a New York. Olocausto. Karma, la chiamano, quella trasmigrazione per i peccati che si son fatti nella vita passata. La reincarnazione mette in che cosa? Dio mio, Dio mio, Dio mio. Peccato però, ma chissà perché non ci si ritrova con loro per qualche ragione. Sir Frederick Falkiner che entra nella loggia massonica, solenne come Troia. Dopo una buona colazione a Hillsford Terrace, vecchi amici legulei che si scolano un boccale, storie del foro e delle assise e annali della scuola degli orfani. L'ho condannato a 10 anni. Credo che torcerebbe il naso davanti alla roba che ho bevuto. Vino di prima qualità per loro. L'hanno sull'etichetta della bottiglia polverosa. Ha le sue idee sulla giustizia quando è in tribunale. Vecchio ben intenzionato. I rapporti della polizia, pieni zeppi di casi, un tanto per cento a fabbricare delitti. Li manda al diavolo. Spauracchio degli usurai. Gli dette una bella lavata di capo a Reuben Jay, ma è proprio quel che si dice un sudicio giudeo. L'influenza che hanno questi giudici, vecchi beoni bisbetici sotto le parrucche, orso ferito alla zampa, e che il Signore abbia pietà dell'anima vostra. Olà, un cartellone. Kermesse di beneficenza a Malus. Sua Eccellenza il luogotenente. Il 16 oggi. Raccolta di fondi per l'ospedale Mercer. Il Messia fu dato la prima volta per questo. Sì, Handel. E perché non andarci? Balsbridge. Una capatina da Kiss. Inutile attaccarglisi come una mignatta. Mi rovino la piazza. Incontro di sicuro qualche conoscente sulla porta. Mr. Bloom arrivò a Kilder Street. Prima devo. Biblioteca. Cappello di paglia al sole. Scarpe gialle. Pantaloni con risvolto. Il cuore accelerava piano i battiti. A destra. Museo. Dei. Virò a destra. Quasi certo. Non voglio guardare. Una vampata di vino. Perché? Troppo generoso. Sì. Modo di camminare. Non vedere. Avanti. Dirigendosi al cancello del museo a gran passi ariosi, alzò gli occhi. Bell'edificio. Sir Thomas Dean ha fatto il progetto. Non mi vien dietro. Non mi ha visto forse, sole negli occhi. Il palpito del suo respiro veniva in brevi ansiti. Svelto, statue fredde, tranquillo là dentro, al sicuro tra un minuto. No, non mi ha visto. Le due passate, proprio al cancello. Il mio cuore. Gli occhi sbattendo guardavano fermamente le curve cremose di pietra. Di Sir Thomas Dean era l'architettura greca. Cercar qualcosa che io... La sua mano frettolosa entrò svelta in tasca, tirò fuori, lesse spiegato Agendath Netaim, dove ho occupato a cercare. Ricacciò dentro alla svelta Agendath. Il pomeriggio ha detto. Quello che sto cercando, sì, quello. Provare tutte le tasche. Fazzol, Freeman, dove ho? Ah, sì, pantaloni, portamonete, patata. Dove ho? Presto, camminar piano. Un momentino, il mio cuore. La sua mano cercando, dove l'ho messo? Trovò nella tasca posteriore il sapone. La lozione che devo ritirare. Carta tepida appiccicata. Ah, ecco il sapone che io, sì, cancello. Al sicuro.